Emma. Ventisettesima traccia. Sentiva come se la primavera non dovesse passare senza arrecare una crisi, un avvenimento, qualcosa che alterasse il suo presente stato di posatezza e di tranquillità. Non passò molto tempo, sebbene un po' di più di quanto non avesse preveduto Mr. Weston, prima che essa fosse in grado di formarsi un'idea dei sentimenti di Frank Churchill. La famiglia di Enscombe non fu a Londra così presto come era stato immaginato, ma Frank fu a Highbury quasi subito dopo. Venne a cavallo per un paio d'ore. Ancora non poteva fare di più. Ma come da Randalls venne immediatamente a Hartfield, Emma poté allora mettere all'opera tutta la sua prontezza d'osservazione e decidere speditamente di che umore egli fosse e come lei dovesse agire. Si incontrarono con la massima cordialità. Non vi poteva essere dubbio sul gran piacere che egli provava di rivederla, ma essa dubitò quasi immediatamente che egli si curasse di lei come prima, che sentisse la medesima tenerezza allo stesso modo. L'osservò bene. Era chiaro che egli era innamorato meno di prima. L'assenza, probabilmente insieme con la convinzione dell'indifferenza di lei, aveva prodotto questo effetto naturale e molto desiderabile. Egli era ad ottimo umore, pronto come sempre a conversare e a ridere, e pareva provar diletto a parlare della sua visita anteriore e a riandare a vecchie storie. E non era senza agitazione. Non fu nella sua calma che ella lesse la sua relativa indifferenza. Egli non era calmo, i suoi spiriti erano evidentemente eccitati, dimostrava irrequietezza. Vivace com'era, pareva una vivacità che non lo soddisfacesse. Ma quel che decise l'opinione di lei in proposito fu che egli non rimase più di un quarto d'ora e scappò in fretta per fare altre visite a Highbury. Aveva veduto per strada, passando, un gruppo di vecchie conoscenze. Non si era fermato. Non si era voluto fermare che per una parola, ma aveva la vanità di pensare che sarebbero rimasti delusi se lui non avesse fatto loro una visita e, per quanto desiderasse trattenersi di più a Hartfield, doveva scappare via. Emma non dubitava che egli fosse meno innamorato, ma né il suo spirito agitato né la sua fretta di andarsene avevano l'aria di una cura perfetta, ed essa propendeva a credere che ciò implicasse un timore del ritorno del suo potere su di lui e una risoluzione prudenziale di non fidarsi a rimanere con lei a lungo. Questa fu la sola visita da parte di Frank Churchill nel corso di 10 giorni. Egli sovente sperava, intendeva di venire, ma ne era sempre impedito. La zia non poteva tollerare che egli la lasciasse, così egli riferiva a Randalls. Se era proprio sincero, se tentava davvero di venire, si poteva concludere che il trasferimento di Mrs. Churchill a Londra non era affatto giovato alla parte deliberata o nervosa del suo disturbo. Che fosse davvero malata era certissimo. Lui stesso se n'era dichiarato convinto a Randalls. Sebbene potesse in gran parte trattarsi di fantasie, egli non poteva dubitare, se ripensava al passato, che essa non fosse in uno stato di salute più debole di mezz'anno prima. Egli non riteneva che ciò provenisse da cosa che la cura e la medicina non avrebbero potuto eliminare, o almeno che non potesse vivere ancora molti anni, ma non poteva arrendersi ai dubbi di suo padre e dire che la sua infermità fosse del tutto immaginaria o che essa fosse robustissima. Ben presto si scoprì che Londra non era un luogo adatto per lei, non ne poteva tollerare il rumore. I suoi nervi erano in uno stato di continua irritazione e sofferenza, e alla fine dei 10 giorni la lettera di suo nipote a Randalls comunicò un mutamento di piano. Stava per trasferirsi immediatamente a Richmond. Mrs. Churchill era stata raccomandata alla perizia medica d'un luminare della scienza lassù, e d'altronde il posto le andava a genio. Si era presa in affitto una casa mobiliata in un punto favorito e si aspettava un benefico effetto dal cambiamento. Emma sentì che Frank scriveva in tono entusiastico di questa sistemazione e sembrava apprezzare moltissimo il vantaggio di trovarsi nei 2 mesi prossimi così vicino a molti cari amici, perché la casa era stata presa per maggio e giugno. Fu detto a Emma che ora egli scriveva con la più grande fiducia di trovarsi spesso con loro, quasi tanto spesso quanto poteva desiderare. Emma vide come Mr. Weston interpretava queste liete prospettive. Egli considerava lei come la fonte di tutta la felicità che quelle offrivano. Lei sperava che così non fosse. 2 mesi avrebbero messo a prova la cosa. La felicità di Mr. Weston era indiscutibile. Egli era incantato. Era proprio l'occasione che aveva desiderato. Adesso si sarebbe avuto davvero Frank nelle vicinanze. Che cos'erano 9 miglia per un giovanotto? 1 ora di cavalcata. Sarebbe venuto continuamente. Sotto questo aspetto, la differenza tra Richmond e Londra bastava a produrre l'intera differenza tra il vederlo sempre e il non vederlo mai. 16 miglia, anzi 18, dovevano essere 18 miglia buone fino a Manchester Street, costituivano un ostacolo serio. Se fosse mai riuscito ad allontanarsi, la giornata sarebbe stata spesa tra l'andata e il ritorno. Non c'era conforto alcuno nell'averlo a Londra, tanto valeva che fosse a Enscombe, ma Richmond era proprio la distanza per comode comunicazioni. Meglio ancora che più vicino. Una buona cosa divenne immediatamente certezza in seguito a questo trasloco, il ballo alla corona. Non che prima fosse stato dimenticato, ma si era subito riconosciuta la vanità di tentar di fissare un luogo. Adesso però doveva assolutamente aver luogo. Furono ripresi i preparativi e poco dopo che i Churchill si furono stabiliti a Richmond, poche righe di Frank per dire che la zia sentiva già i benefici del mutamento e che egli non dubitava di poter passare con loro 24 ore in qualunque momento, li spinsero a fissare una data la più vicina possibile. Il ballo di Mr. Weston diveniva una cosa reale. Pochi domani separavano i giovani di Highbury dalla felicità. Mr. Woodhouse si era rassegnato. La stagione rendeva per lui più lieve quel malanno. Maggio era sotto ogni rispetto migliore di febbraio. Mrs. Bates fu invitata a passare la sera a Hartfield. James venne debitamente avvisato. Ed egli con ottimismo sperò che né il piccolo caro Henry né il piccolo caro John avessero alcun disturbo mentre era assente la cara Emma. Non accadde nessun contrattempo che impedisse di nuovo il ballo. Il giorno s'avvicinò. Il giorno arrivò. E dopo una mattinata d'attesa un po' ansiosa, Frank Churchill, in tutta la certezza della propria persona, giunse a Randalls prima di pranzo e ogni cosa fu a posto. Non c'era ancora stato alcun secondo incontro tra lui e Emma. La sala della corona doveva essere testimone di questo secondo incontro, ma sarebbe stato meglio di un incontro ordinario in una folla. Mr. Weston aveva tanto insistito nelle sue preghiere perché essa venisse presto, perché arrivasse là quanto più presto possibile dopo di loro, al fine di dare la sua opinione circa la proprietà e la comodità di quelle istanze prima che giungessero gli altri. Ed essa non aveva potuto dirgli di no, e doveva perciò spendere un intervallo di calma in compagnia del giovanotto. Doveva condurre Harriet, ed esse si recarono in carrozza alla corona di buon'ora, precedute appena per tempo sufficiente dalla famiglia di Randalls. Pareva che Frank Churchill fosse stato allerta, e sebbene egli non dicesse molto, i suoi occhi dicevano chiaramente che egli intendeva di passare una serata deliziosa. Tutti fecero un giro insieme per vedere che ogni cosa fosse come doveva, e dopo pochi minuti furono raggiunti dagli occupanti di un'altra carrozza, di cui Emma non poté udire a tutta prima il suono senza una grande sorpresa. Che sollecitudine irragionevole stava per esclamare! ma ecco che trovò che era una famiglia di vecchi amici che, come lei stessa, venivano per espresso desiderio di Mr. Weston, per aiutarlo a formarsi un giudizio. E costoro furono seguiti, a così breve distanza, da un'altra carrozza di cugini, che erano stati pregati di venire presto con lo stesso zelo di distinzione per lo stesso scopo, che pareva che la metà degli invitati dovesse di lì a poco trovarsi adunata allo scopo di fare un'ispezione preparatoria. Emma si accorse che il suo gusto non era il solo su cui faceva segnamento Mr. Weston e sentì che essere favorite ed intime d'un uomo che aveva tanti intimi e confidenti non era proprio la prima distinzione nella scala della vanità. Le piacevano i suoi modi aperti, ma un po' meno di cuore aperto avrebbe fatto di lui un carattere più elevato. Una benevolenza generale, ma non un'amicizia generale, rendeva un uomo quel che doveva essere. Un tal uomo gli sarebbe andato a genio. L'intera comitiva girò intorno e guardò e di nuovo fece lodi. E poi, non avendo da fare altro, formò una specie di semicerchio intorno al fuoco, per osservare chi in un modo, chi in un altro, finché non furono abbordati altri temi, perché, sebbene si fosse di maggio, un fuoco la sera era ancora molto piacevole. Emma scoprì che non era colpa di Mr. Weston se il numero dei consiglieri privati non era ancora maggiore. Si erano fermati alla porta di Mrs. Bates per offrire loro l'uso della carrozza, ma la zia e la nipote dovevano essere trasportate dagli Elton. Frank stava presso di lei, ma non costantemente. Aveva un'irrequietezza che mostrava uno spirito non calmo. Guardava attorno, si recava alla porta, stava in ascolto se udisse il rumore di altre carrozze, impaziente di cominciare, o timoroso di rimanere sempre presso di lei. Si parlò di Mrs. Elton. «Credo che sarà qui tra poco», disse egli. «Sono molto curioso di vedere Mrs. Elton. Ne ho inteso tanto parlare. Non può tardare molto, penso». S'udì una carrozza. Subito egli si mise in moto, ma tornando indietro osservò. Dimentico che non la conosco. Io non ho mai veduto né Mister né Mrs. Elton. Non è affar mio metterne innanzi. Apparvero Mister e Mrs. Elton e corsero tutti i sorrisi e i convenevoli. Ma Miss Bates e Miss Fairfax, esclamò Mister Weston, guardando intorno, credevamo che le avreste accompagnate voi. L'errore era stato lieve. Adesso la carrozza fu mandata a prenderle. Emma non vedeva l'ora di sapere quale sarebbe stata la prima impressione di Frank intorno a Mrs. Elton, che effetto gli avrebbero fatto la studiata eleganza del suo vestire e i suoi sorrisi di degnazione. Egli si metteva immediatamente in grado di formarsi un giudizio, tributandole tutta la dovuta attenzione dopo esserle stato presentato. Dopo pochi minuti la carrozza fu di ritorno. Qualcuno parlò di pioggia. «Vado a vedere che ci siano degli ombrelli», disse Frank al padre. «Miss Bates non deve essere dimenticata», e se ne andò. Mr. Weston gli andava dietro, ma Mrs. Elton lo trattenne per fargli piacere dandogli la propria opinione di suo figlio. E cominciò così vivacemente che perfino il giovanotto, che pure non si muoveva lentamente, non avrebbe potuto non udire. «Davvero un giovanotto di prim'ordine, Mr. Weston. Sapete che io francamente vi dissi che mi sarei formata da me la mia opinione, e sono lieta di dire che egli mi piace moltissimo. Potete credermi, io non faccio mai complimenti, lo ritengo un gran bel giovane, e i suoi modi sono precisamente quel che mi piace d'approdo. Ed egli è così spiccatamente un gentiluomo, senza la minima posa o vanità. Dovete sapere come io abbia noia ai vagheggini, proprio non li posso soffrire. Non sono mai stati tollerati a Maple Grove. Né Mr. Sacklin né io abbiamo mai avuto pazienza con essi e alle volte solevamo dir cose assai mordaci. Selina, la cui mitezza arriva fino ad essere un difetto, li tollerava molto meglio. Finché essa parlò del figlio, l'attenzione di Mr. Weston rimase incatenata. Ma appena toccò il tasto di Maple Grove, egli poté ricordarsi di dover accogliere altre signore che stavano arrivando e, con sorrisi di felicità, dovette allontanarsi in fretta. Mrs. Elton si rivolse a Mrs. Weston. «Non dubito che non sia la nostra carrozza con Miss Bates e Jane. Il nostro cocchiere e i nostri cavalli sono molto rapidi. Credo che andiamo più veloci di tutti. Che piacere mandare la propria carrozza per un amico. Ho sentito che voi stessa siete stata tanto cortese da offrirla, ma un'altra volta sarà del tutto superfluo. Potete star sicura che penserò sempre io a loro. Miss Bate e Miss Fairfax, scortate dai due signori, fecero il loro ingresso nella sala. E Mrs. Elton pareva pensare che fosse dover suo, non meno di Mrs. Weston, riceverle. I suoi gesti e movimenti avrebbero potuto essere compresi da chiunque stesse a osservare, come Anne. Ma le sue parole, le parole di ognuno, furono tosto sommerse dall'incessante parlantina di Miss Bate, che entrò chiacchierando, e non aveva finito il suo discorso parecchi minuti dopo essere stata ammessa nel circolo presso il fuoco. Come si aprì la porta, si udì la sua voce. «Siete stata così gentile! No, niente pioggia, nulla da farci caso, non me ne importa per me, scarpe dalla suola grossa!» E Jane dichiara «Bene!» appena ebbe oltrepassato la soglia. «Bene, questo è davvero splendido! Questo è ammirevole, parola d'onore, il risultato è brillante!» Non manca nulla. Non me lo sarei potuto immaginare. Così bene illuminato. Jane, guarda, hai mai visto nulla di simile? Oh, Mr. Weston, dovete aver avuto davvero la lampada di Aladino. La buona Mrs. Stokes non riconoscerebbe le sue stanze. L'ho vista mentre entravo. Stava sull'ingresso. Mr. Stokes ho fatto io, ma non ho avuto tempo di dire di più. A questo punto le si fece incontro Mrs. Weston. «Benissimo, grazie, signora. Spero che voi stiate bene. Sono lieta di sentirlo. Temevo tanto che vi foste preso un mal di capo. Vedendovi così spesso e sapendo quando vi siete data da fare, sono incantata di saperlo. Ah, Mrs. Elton, vi siamo tanto obbligate per la carrozza. È venuta proprio in tempo. Jane e io eravamo pronti in quel momento. Non abbiamo fatto aspettare i cavalli un istante. La carrozza era comodissima». «Oh, davvero, dobbiamo a voi i nostri ringraziamenti, Mrs. Elton. Aveva molto gentilmente mandato un biglietto a Jane, o saremmo state a due offerte simili in un giorno. Non ci sono mai stati di tali vicini», ho detto a mia madre. «Parola d'onore, mamma». «Grazie, mia madre sta assai bene, è andata da Mr. Woodhouse. Le ho fatto prendere lo scialle, perché le sere non sono calde». Il suo grande sciallo nuovo, il regalo di nozze di Mrs. Dixon. Così cortese da parte sua pensare a mia madre. Comperato a Weymouth, sapete, certo da Mr. Dixon è stato scelto. Ce n'erano altri tre, dice Jane, su cui hanno esitato per un po'. Il colonnello Campbell ne preferiva un olive. Mia cara Jane, sei sicura di non esserti bagnati i piedi? Non è stata che una goccia o due, ma io ho tanta paura. Ma Mr. Frank Churchill è stato tanto e c'era una pedana su cui scendere. Non dimenticherò mai la sua estrema cortesia. Mr. Frank Churchill, devo dirvi che gli occhiali di mia madre non hanno sgarrato più da allora. Il chiodino non è più venuto fuori. Mia madre parla spesso della vostra bontà. Non è così, Jane? Non parliamo spesso di Mr. Frank Churchill? Ah, ecco Miss Woodhouse. Cara Miss Woodhouse, come state? Benissimo, grazie, proprio bene. Qui ci si incontra nel regno delle fate. Che trasformazione. Non bisogna complimentarsi, lo so, guardando con gran compiacenza. Questo sarebbe scortese, ma, parola d'onore, Miss Woodhouse, avete un'aria... Che ne dite della pettinatura di Jane? Voi siete un giudice. Si è acconciata da sé. È una meraviglia come si accomodi i capelli. Nessun parrucchiere di Londra ci riuscirebbe, credo. Ah, eccola il dottor Hughes e Mrs. Hughes. Devo andare a parlare per un momento al dottore e a Mrs. Hughes. Come state? Come state? Benissimo, grazie. Qui è una delizia, non è vero? Dov'è il caro Mr. Richard? Oh, eccolo là. Non disturbatelo. Spende molto meglio il suo tempo a parlare con le signorine. Come state, Mr. Richard? V'ho veduto l'altro giorno mentre passavate a cavallo per la città. Oh, ecco Mrs. Otway, vi garantisco. Il buon Mr. Otway e Miss Caroline. Che folla d'amici. E Mr. George e Mr. Arthur. Come state tutti? Benissimo, obbligatissima. Non sono mai stata meglio. Non è un'altra carrozza che sento? Chi può essere? Molto probabilmente gli eccellenti Cole. Parola d'onore, è incantevole trovarsi tra tali amici. E un fuoco così grande. Sono proprio arrostita. Niente caffè, grazie per me. Non prendo mai caffè. Un po' di tè, per favore, signore, tra un poco. Non c'è fretta. Oh, eccolo che viene. Ogni cosa è così buona. Frank Churchill tornò a prendere posto accanto ad Emma. E appena Miss Bates si fu chetata, Emma non poté fare a meno di udire la conversazione tra Miss Elton e Miss Fairfax, che stava a poca distanza dietro di lei. Frank era sopra pensiero. Se anche lui ascoltasse quella conversazione, Emma non poté stabilirlo. Dopo molti complimenti a Jane sul suo vestito e il suo aspetto, complimenti ricevuti con molta calma e correttezza, Mrs. Elton evidentemente voleva essere complimentata lei stessa e disse: «Che ve ne pare del mio vestito? Come vi sembrano le mie guarnizioni? Come mi ha pettinata Wright?» Con molte altre domande del genere, a cui venne risposto con paziente cortesia. Poi Mrs. Elton disse: «Nessuno in genere può pensare meno agli abiti di quel che faccio io, ma in un'occasione come questa, quando gli occhi di tutti mi stanno tanto addosso, e in omaggio ai Weston, che non dubito certamente danno questo ballo per onorare me, non desidererei di essere da meno di altri. E vedo ben poche perle nella stanza, eccetto le mie. Così, Frank Churchill è un ballerino di prim'ordine, a quel che intendo. Vedremo se i nostri stili vanno d'accordo. Certo, Frank Churchill è un gran bel giovane, mi piace assai». A questo punto, Frank cominciò a parlare con tanta energia che Emma non poté non pensare che egli avesse udito le proprie lodi e non volesse sentire di più. E le voci delle signore furono coperte per un po', finché un'altra pausa fece distintamente riaffiorare le intonazioni di Mrs. Elton. Mr. Elton si era appena unito ad esse e sua moglie esclamava: «Ah! Oh, ci hai scovato alla fine, nel nostro angolino. Stavo dicendo appunto a Jane che pensavo che avresti cominciato a essere impaziente da aver nostre notizie». «Jane», ripeté Frank Churchill con un'espressione di sorpresa e di scontentezza, «codesto è disinvolto, ma suppongo che Miss Fairfax non lo disapprovi». «Come vi garba, Miss Elton?» disse Emma sottovoce. «Non mi garba punto. Siete un ingrato». «Ingrato, che volete dire?» Indi, passando da un cipiglio ad un sorriso. «No, non ditemelo. Non voglio sapere ciò che volete dire. Dov'è mio padre? Quando incominciamo a ballare?» Emma non riusciva a capirlo. Egli pareva d'umore strano. Si allontanò in cerca del padre, ma presto fu di ritorno con Mr. e Mrs. Weston. Li aveva trovati in una piccola perplessità che doveva venire esposta ad Emma. Era venuto in mente a Mrs. Weston un momento prima che si doveva chiedere a Mrs. Elton di iniziare le danze, che lei se lo sarebbe aspettato. E questo intralciava tutti i loro desideri di conferire a Emma quella distinzione. Emma apprese con fortezza la triste verità. «E come dobbiamo provvederle un cavaliere adeguato?» disse Mr. Weston. «Lei penserà che Frank dovrebbe invitarla». Frank si volse immediatamente verso Emma per reclamare la sua precedente promessa e si vantò d'essere impegnato. E il padre accolse questo con la sua più completa approvazione. E allora apparve che Mrs. Weston desiderava che ballasse con Mrs. Elton lui stesso e che il loro compito era di aiutare a persuaderlo, e ciò fu presto fatto. Mr. Weston e Mrs. Elton si misero in testa. Miss Woodhouse e Mr. Frank Churchill seguirono. Emma dovette sottomettersi a figurare seconda a Mrs. Elton, sebbene avesse sempre considerato che il ballo era adatto specialmente per lei. Era una circostanza che quasi bastava a farla pensare di sposarsi. Mrs. Elton ebbe indubbiamente il sopravvento questa volta, ricevendo piena soddisfazione la sua vanità. poiché, sebbene avesse desiderato di cominciare con Frank Churchill, non poteva perderci col cambiamento. Mr. Weston poteva essere considerato superiore a suo figlio. Nonostante questa piccola contrarietà, tuttavia, Emma sorrideva di gioia, incantata di vedere le proporzioni rispettabili della fila che si andava formando e di sentire che aveva dinanzi a sé tante ore di insolito divertimento. Fu più disturbata dal fatto che Mr. Knightley non ballava che da qualunque altra cosa. Egli stava là tra gli spettatori, dove non avrebbe dovuto essere. Egli avrebbe dovuto ballare, non classificarsi fra i mariti, i padri, i giocatori di whist, che pretendevano di interessarsi al ballo finché non erano formate le loro partite, giovani come ne aveva l'aspetto. Non avrebbe forse potuto far miglior figura in un posto diverso da quella in cui si era collocato. La sua persona alta, robusta, diritta, tra le corporature pesanti e le spalle curve degli uomini anziani, spiccava talmente che Emma sentì che doveva attirare gli occhi di tutti. E, a eccezione del suo cavaliere, non c'era nessuno in tutta la schiera dei giovani che potesse paragonarsi a lui. Fece pochi passi innanzi, e quei pochi passi bastarono a dimostrare in che modo signorile, con che grazia naturale, egli avrebbe potuto ballare se solo se ne fosse data la pena. Ogni volta che essa incontrava lo sguardo di lui, lo forzava a sorridere, ma in genere egli aveva l'aria grave. Emma desiderava che egli amasse di più una sala da ballo e trovasse più simpatico Frank Churchill. Pareva osservarla spesso. Essa non doveva lusingarsi che egli si interessasse alla sua danza, ma se criticava il suo contegno non aveva paura. Non c'era l'ombra di flirt tra lei e il suo cavaliere. Parevano piuttosto amici allegri, disinvolti che innamorati. Che Frank Churchill pensasse a lei meno di prima non c'era dubbio. Il ballo procedeva gradevolmente. Le ansiose cure e le incessanti premure di Mrs. Weston non erano state spese invano. Ognuno pareva felice, e la lode di ballo delizioso, che di rado è concesso prima della fine d'un ballo, fu fatta ripetutamente proprio sul principio di questo. Da avvenimenti molto importanti e degni di memoria non ne produsse più di quanti non ne producono di solito tali rilievi. Ce ne fu uno, tuttavia, a cui Emma diede una certa importanza. Le due ultime danze prima della cena erano cominciate, e Harriet non aveva cavaliere, la sola signorina seduta. E fino a quel momento il numero dei ballerini era stato così uguale che era da stupirsi come ci potesse essere una persona non impegnata. Ma lo stupore di Emma diminuì subito dopo, vedendo Mr. Elton che girellava qua e là. Egli non avrebbe invitato Harriet a ballare se era possibile evitarlo. Emma era certo che non lo avrebbe fatto e si aspettava di vederlo scappare da un momento all'altro nella sala da gioco. Tuttavia il suo piano non era di scappare. Andò nella parte della sala dove erano seduti insieme gli spettatori. Parlò con alcuni e passeggiò dinanzi ad essi come per far mostra della sua libertà e della sua risoluzione di conservarla.